nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ebbene sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è arrivato. È arrivato, qualcuno magari lo aspettava, qualcun altro avrebbe voluto che arrivasse un po' più tardi. Invece ho avuto la prova questa mattina, passando in bagno, ho lanciato un urlo di terrore. Ero io che mi guardavo allo specchio, questo colorito verdognolo straordinario. Ho capito, è arrivato l'inverno, naso sgocciolante. E quindi non ci sono più le mezze stagioni. Abbiamo la conferma anche per questo, perché a parte ho visto in televisione con un certo attacco di bile che in Sicilia qualcuno fa ancora il bagno, però diciamolo che questo passaggio repentino da 25 gradi a quelli che ci sono, qualcuno, insomma, io sono di solito invulnerabile, ecco, i raffreddori non fanno parte di me, ma questa volta mi è capitato. Quindi se sentite questa voce nasale è perché è arrivato l'inverno. Ma quante cose sono arrivate questa settimana, quante cose sono successe. Noi ci ritroviamo sempre, io e voi naturalmente, ogni sabato dalle 14 alle 15 per fare il bilancio delle tante cose successe e soprattutto per esprimere liberamente le vostre opinioni, le vostre riflessioni. Il numero verde è sempre lì a vostra disposizione, 800 24 00 24, numero verde perché gratuito ma anche ecologico, per evitare di disperdere nell'ambiente le vostre energie, il vostro tempo, le vostre riflessioni. Convogliatele tutte qui, non ci sono più le mezze stagioni. 800 24 00 24. Come anticipare, come riassumere, diciamo, in poche parole le tante cose anche di questa settimana? Intanto, primo titolo sia del Corriere Online che di Repubblica Online: voto anticipato, il Colle boccia l'ipotesi. Perché sapete, ogni tanto queste nenie, sempre le solite cose, no? Ogni poco si sente, ah, si voterà prima, si voterà quando si voterà, probabilmente anticipiamo, probabilmente facciamo cadere il governo Monti. Insomma, per il momento Napolitano smentisce queste indiscrezioni di corridoio, ma poi le notizie sono moltissime. Naturalmente in testa ci sono le elezioni siciliane, no? Con le sorprese, non so, per qualcuno sì, per qualcuno no. Comunque ha vinto Crocetta dalla alleanza tra PD e UDC, che invece stenta a decollare per quanto riguarda il panorama nazionale. Poi magari ne parleremo. Primo partito però quello di Grillo in Sicilia, dopo la traversata dello stretto a nuoto, e invece è affondato, possiamo dire così, con una metafora anche questa marina, il PDL. Insomma, questo, diciamo, il quadro sinteticamente delle elezioni in Sicilia. Molti gli interventi delle ascoltatrici e degli ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni su questi risultati. E poi tutti gli scossoni che ne sono anche conseguiti, no? Grillo, che allora si sente un po' più forte, più ingalluzzito, e offre a Di Pietro, che è piuttosto in difficoltà, soprattutto dopo l'intervista a Report di questi giorni a Milena Gabanelli sui suoi possedimenti, sulla gestione, insomma, dei finanziamenti pubblici al suo partito, anche se lui si discolpa. Grillo che gli tende la mano e lo candida addirittura al Quirinale. Anche su questo molti interventi sulla pagina di Non ci sono più le mezze stagioni. Poi Vendola, che è stato assolto, sapete, accusato di aver favorito, diciamo così, l'assunzione di un primario, invece è stato assolto perché il fatto non sussiste. La vicenda Fiat, che ha fatto intervenire persino una ministra piuttosto duretta come Fornero e anche il ministro Passera, con questo stop alla Fiat, che dice la Fiat, dopo questo ricorso dei lavoratori che non erano stati reintegrati, 19 lavoratori hanno fatto ricorso, allora il tribunale ha detto no, tu Fiat devi reintegrare questi 19 lavoratori. Allora la Fiat che fa? Dice vabbè, devo prendere per forza questi 19 e ne faccio fuori altri 19. Diciamo un calcolo un po' particolare questo, no? E poi Berlusconi, che qualche giretto di valzer, non mi candido, poi mi ricandido dopo la sentenza, quindi vediamo se tenere la fiducia al governo Monti o farlo cadere. Poi invece dice no, non sto facendo una campagna contro Monti, poi dice invece no, continuo a essere piuttosto critico. Insomma, ancora non si capisce. Le elezioni americane, naturalmente, poi la morte di Pino Rauti, tra i fondatori dell'MSI, la morte di Gaia Olenti, grande architetta italiana, e sapete anche che è stata, se foste voi dei maratonetti, diciamo io una certa passione di questo tipo, è stata annullata la maratona di New York. Sappiatelo che domenica non si corre per i disastri causati dall'uragano Sandy. Ma signore e signori, ci confermiamo anche questa settimana con un fatto particolare: perché non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Diciamo che avevo riflettuto su varie cose questa settimana che mi davano la sensazione chiara, netta, che non ci sono più le mezze stagioni, ma una stamattina mi ha folgorata. Guardavo distrattamente mentre mi preparavo in fretta e furia. La televisione a un certo punto passa uno spot. Io pensavo, dico, avrò sentito veramente, è proprio così. Allora, questo spot praticamente pubblicizzava, attenzione, tenetevi forti, soprattutto se siete deboli di cuore, il primo assorbente per perdite urinarie maschili. Non ho mai sentito, in tutto il mondo. È un'anteprima mondiale stata. Finora avevamo pensato che le perdite, gli odori strani, i pruriti, cioè, ce l'avessero solo le donne. Solo le donne si lavassero, diciamo, in certi posti un po' intimi. Reclame relative agli uomini su questo piano se ne sono mai sentite. E penso che nessuno sapesse che anche gli uomini possono avere delle perdite urinarie. Mai, perché sono sempre le donne in ascensore, nelle pubblicità imbarazzate, che dicono, ma sai, pensavo di sentire un certo odore. Invece con questo assorbente è risolto tutto. Invece anche gli uomini. Guardate come cambia la cultura e come cambiano le stagioni, avete visto? Bene, adesso possiamo benissimo propinquarci all'ospite. Adesso abbiamo anche questa novità all'opinionista estemporaneo di oggi, che è, signore e signori, Riccardo Iacona. Buon pomeriggio a tutti voi. Riccardo, mi ha detto che sei in motorino, scusi, tu sai che devi presenziare la trasmissione, tu viaggi su due ruote motorizzate per Roma. Beh, veramente sì, stavo in giro per la città perché dovevo spostarmi da un posto all'altro, adesso mi sono fermato, spero che mi sentiate bene nonostante il traffico di Roma. Sì, beh, sei andato del fruttivendolo? Che hai fatto di... no? Beh, devo andare a vedere una partita di calcetto. Ah, sei appassionato di partite di calcetto? E tu giochi? Insomma, sì, quando giocano i ragazzi e i bambini è sempre bello seguirli. Ah, i bambini. Però la partita comincia dopo le 3:30, quindi ci siamo. Bene, abbiamo il tempo, prendiamoci una pancata. Nel frattempo ho fatto un pezzo di strada, siccome il campo era lontano, e mi sono avvicinato. Sai, Roma è veramente grande. Lo so. Roma caput mundi, diceva qualcuno, no? Mi sembra di ricordare. Riccardo Iacona. Tutto caput chilometrica, ecco. Giornalista TV, Riccardo Iacona, autore, conduttore dell'Italia Impresa Diretta su Rai 3. Quando ricominci, Riccardo, fra l'altro? Il 6 gennaio, la domenica. Con la Befana. 6 gennaio, proprio con la Befana. Beh, per 12 puntate di seguito, per ogni domenica, sempre dopo Fazio, prima serata su Rai 3. E poi facciamo, poi riparte Report, che nel frattempo farà le sue puntate, e noi in chiusura della stagione a giugno ne facciamo altre 4, per 16 puntate complessive. Senti, ma ci porterai un po' di carbone o qualcosa di dolce con la tua prima puntata? La prima puntata è dedicata al calcio, titolo provvisorio, ecco. Il biscotto, quindi niente carbone ma tanti biscotti. Biscotto che è un modo di dire, no? un gergale, diciamo, no? Nel calcio, il biscotto. Sì. Quando ci si mette d'accordo, ci si mette d'accordo, no? È scommesso. Abbiamo fatto una bella inchiesta perché l'abbiamo fatta in giro per il mondo intero, perché non è un fenomeno solo italiano, è molto interessante perché sul calcio scommesse si muovono veramente capitali enormi dall'Indonesia attraverso l'Europa, da un po' dappertutto, e questa dimensione internazionale non si era mai vista in televisione. E Riccardo Iacona, tra l'altro, ha pubblicato un libro che ha avuto un grande successo, non perché ormai il romanzo dell'anno, il saggio straordinario, no. Per fortuna, io sono felicissima di questo successo, perché è un libro che aspettavamo da tempo e si intitola Se questi sono gli uomini, pubblicato da Chiare Lettere, su appunto questa tragedia costante di cui io vi parlo ogni volta, diciamo la verità, da anni. Faccio il bilancio ogni volta delle donne man mano che vengono ammazzate durante la settimana. Il femminicidio, questa tragedia nazionale costante, incessante, ogni due giorni viene uccisa una donna nel silenzio e nell'indifferenza generale. Io ho detto più volte, come affrontata come fosse la forfora sulle spalle, no? Che è una cosa fisiologica, alla fine non è che ci possa fare più di tanto, succede così, no? Riccardo? Brava, proprio sì, io per questo ho fatto questa inchiesta, per togliere queste storie da quella cronaca che tu hai raccontato così bene, questa storia della forfora sulle spalle, cioè sono degenerazioni di liti in famiglia, che vuoi fare, no? Povera ragazza che ha incontrato la persona sbagliata, no? Oppure un'immagine che sono storie che avvengono in mondi lontano da noi, borderline, l'emarginazione sociale, storie di tossici, storie di non è vero niente. Quando attraversi quello, ho fatto io, ho preso carta e penna e me ne sono andato in giro per i quartieri d'Italia, dal sud al nord, e ho ricostruito un po' di queste povere donne uccise nel 2012. Mano a mano che le ricostruivo, però, come dici tu, ogni due giorni, tre giorni ne arrivava un'altra, no? Quindi ero costretto, scappavo. Non ci si riesce a star dietro. Raccontavo Vanessa Scialfa e scappavo a Paternò. E ho capito appunto che non è proprio così, cioè che si tratta di una grande tragedia nazionale, intanto, cioè nei numeri, secondo le donne vengono uccise in quanto donne, non per il fatto che hanno incontrato l'uomo sbagliato, ma solo perché hanno avuto un gesto di ribellione, di autonomia, di indipendenza, hanno detto per una volta no, io con te non ci sto più, oppure io ti denuncio ai carabinieri. Quello è il momento in cui scatta la punizione. Ultima cosa, poi se vuoi ne continuo a parlare, perché sì, io sono, penso che è l'argomento nostro, ecco, di cui ci dobbiamo occupare tutti, per questo se questi sono gli uomini, non è una storia per donne. Terza cosa, gli omicidi sono tutti omicidi mafiosi, cioè fatti, esecuzioni pubbliche, fatte davanti ai posti di lavoro, fatti negli androni nelle scuole, davanti ai figli. Nelle scuole, davanti ai figli, no, proprio perché la punizione deve essere esemplare, è un po' come quando si prende la donna nel villaggio sperduto dell'Afghanistan e la si lapida per punirla davanti a tutto il paese. Quindi la cultura è quella, non siamo, capisci, molto distanti. Ecco, cioè, sì. Noi siamo a rompere le scatole ai tunisini perché nella Costituzione volevano mettere Fratelli Musulmani, che la donna è praticamente sottomessa all'uomo, insomma è una parte dell'uomo, non ha la sua indipendenza. Sono scandalizzati, facciamo bene a scandalizzarci quando i diritti delle donne vengono violati nel mondo intero, però non pensiamo di essere un paese mediamente civile, invece è proprio il momento in cui l'ondata della violenza contro le donne è più alta. Dobbiamo cominciare a guardare noi stessi. Sai che cosa mi capita, appunto, come ti dicevo, spesso di parlarne, purtroppo, di questo argomento, visto che è quotidianamente di attualità, e a volte intervengono degli ascoltatori uomini. Devo dire che ho una platea maschile veramente di grande livello, secondo me, di spessore umano, però ogni tanto intervengono alcuni che dicono ma sai, alle donne sì, permettendo che condanniamo la violenza eccetera, però a volte certe donne sono esasperanti, eccetera, come se giustificassero in qualche modo. Ma non è, tra l'altro, è da capire che non è che queste donne sono in casa e martellano gli uomini, no, se ne vogliono andare, tutte quelle che vengono uccise perché se ne vanno dai Brava. Fidanzati, dai mariti, e questi non accettano questo abbandono. Ti devo dire che tra l'altro mi sono arrivate diverse mail, tra cui quella di un certo Pierre, al quale risponderò via mail, che mi diceva, insomma, non è che si possano sempre condannare gli uomini che sono brutti e le donne sono vittime, e tra l'altro queste donne non si riescono a disciplinare. Ha scritto una cosa del genere: non sono disciplinate. Cioè, questo fa parte, verbo, secondo me, di questo largo fronte di resistenti, chiamiamoli così, perché diciamo che il processo di autonomia, di indipendenza vera della donna è un processo difficile in tutto il mondo, è un processo in continua crescita che, diciamo, incontra moltissime resistenze, e dobbiamo incominciare a guardare un po' brutalmente come è fatto il nostro paese e dire che da noi la resistenza al processo di emancipazione della donna è larga. I contesti sociali in cui avvengono queste storie, te ne rendi conto subito quando ci vai vicino, sono contesti sociali larghi, capisci? Cioè non sono storie, le soglie di attenzione nel nostro paese sono molto basse perché viene considerata appunto una cosa, in un certo senso siamo complici tutti di questa uccisione delle donne, perché non pensiamo che siano delle cose importanti, capito? Allora lui fa parte di questi resistenti. Comunque la cosa bella è che questo libro l'abbia scritto un uomo, come te, Riccardo. Sì. No, se fosse stato scritto da una donna, anche se non c'era nulla da ritenere scontato, qualcuno avrebbe detto vabbè, è una cosa che riguarda loro. Invece, come hai detto giustamente tu, riguarda forse prima di tutto ancora gli uomini e poi le donne, sono loro che, no, devono liberarsi di questa cultura. Sicuramente, se la donna non si ribellasse, non ci sarebbe neanche bisogno di ucciderla, no? Questo è il punto. Noi dobbiamo capire bene la densità politica di questi omicidi, a prescindere dalle singole storie, no? È quello che ho cercato di fare con questo libro, cioè far capire quanto è spesso questo, qualcosa ci raccontano questi omicidi di noi profondamente, del nostro rapporto con le donne, no? E quanto è largo il consenso, diciamo, non tanto attorno all'omicidio, che chiaramente sconvolge tutti, no? Però, diciamo, dietro l'omicidio ci stanno centinaia di migliaia di case prigione in Italia dove le donne subiscono violenza, nel quartiere si sa e nessuno interviene, le famiglie lo sanno e nessuno interviene, quindi è larga, diciamo, la complicità attorno alla sottomissione della donna in Italia. Mettici pure il fatto che le donne in Italia contano pochissimo rispetto a quello che sono dal punto di vista. Basta vederlo in tutti gli ambiti, insomma. No? In tutti gli ambiti, e hai costruito quello che è un vero e proprio apartheid. Ora noi non ne usciamo, non esce un paese più civile senza le donne, ma neanche dal punto di vista economico. Sono energie enormi e noi le teniamo a casa, diciamo, o le sottomettiamo. Sono delle persone che hanno, tra l'altro, mediamente più colte degli uomini, diciamo, proprio dal punto di vista statistico, perché sono più formate, sono cioè più sono più laureate donne che laureati uomini, no? Hanno un'energia straordinaria e potrebbero, in tutti i paesi che vanno bene, le donne sono protagoniste. tutti i paesi che vanno bene economicamente. Quindi diciamo è un grande tema, uno dei tanti grandi, non sono tanti grandi temi italiani. Questo è uno di questi. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per voi. Tra l'altro, prima Pietro Lacorte mi annuncia che ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia, ma ti lancio solo una domanda, tu non mi rispondi, Riccardo, hai tempo di pensarci mentre sei col tuo motorino. Secondo te, in Italia, i poliziotti e i carabinieri per chi votano? A tra poco. Non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più, ma ci sono sempre io, naturalmente, con voi, Roberta Giordano, e opinionista estemporaneo di oggi è il giornalista, conduttore TV Riccardo Iacona, che ha appena pubblicato questo libro, Se questi sono gli uomini, sul femminicidio in Italia, tragedia nazionale. Il numero verde per voi è 800 24 00 24. Avevo lasciato voi e Riccardo Iacona con questa domanda: per chi votano i poliziotti e i carabinieri in Italia? C'è un politico che ha risposto con estrema risolutezza. Tu lo sai per chi votano, caro Riccardo? Ma sì, perché io appunto ci parlo, ci lavoro, noi abbiamo fatto tante cose, tante puntate raccontando il lavoro dei carabinieri e dei poliziotti, quindi conosco anche, diciamo, incontro anche le persone più operative, le persone che lavorano su, sono liberi, quindi grazie a Dio votano per tutti, compreso per Grillo. Ecco, perché questa sai, è una grande risorsa del nostro paese. Perché capisci? Sai che Grillo, il fatto che ci sia questa democrazia, certo, dentro le forze dell'ordine, un po' di libertà di pensiero, perché Grillo ha detto proprio così, testualmente: polizia e carabinieri votano tutti 5 stelle perché sono stufi di portare i politici a scopare. L'ha detto lui, non l'ho detto io. Vabbè, ma lui con questo vuole, lui fa grande, fa tanto marketing su questo. Questo, no? Quindi lui con questo vuol dire persino i poliziotti e i carabinieri ci votano, che non ne possono più della politica così come viene, come è stata rappresentata in Italia, e anche di questi politici, che un po', diciamo, è il vero cavallo di battaglia di Grillo. Ma lui è passato dai grandi temi ambientali al tema ambientale per eccellenza, secondo la sua posizione, che è quello del rinnovamento della classe dirigente, no? Aria nuova, facce nuove. Ecco, facce nuove, cioè altre cose nuove. Ma il punto G. No, quella è una cosa scandalosa. Punto G. Cioè, io quando l'ho letto, sarà che sono diventato ipersensibile su questi argomenti, no? Cioè, non sono un ragazzo, sono nato nel 57, insomma, l'Italia, ho vissuto in questo paese maschilista, non sono un ragazzino, però insomma, quando ho sentito questa cosa qui del punto G, penso che lui debba usare, siccome ne ha fatte altre di scivolate maschiliste, sì, di questo sì, allora, ecco, spiego, non abbiamo bisogno. Questo è un paese che diventerà più pulito quando diventeranno un tabù non solo lo schiaffo, ma anche le parole. Ecco, no? Io devo dire, al di là di chi posso sostenere o non posso sostenere politicamente, ognuno ha le proprie idee, però Grillo, che fa tanto il rinnovamento, il nuovo, la novità, eccetera, eccetera, su queste cose, è proprio di un becero maschilismo, perché già aveva detto, mi pare la scorsa settimana, Renzi all'invidia penis, quindi è una questione di chi ce l'ha più lungo, sì, no, chi ce l'ha più grosso, eccetera. Ma anche, cioè, lui, diciamo, naturalmente è politicamente scorretto, questa cosa si accetta nel linguaggio del comico, cioè io dal suo spettacolo mi posso aspettare di tutto, anche le cose più dissacranti, anche le cose più politicamente scorrette, no? Cioè, però non si accetta, ma se fai il leader politico, ti candidi a guidare il paese, no? Così come l'attacco frontale, diciamo, ai giornalisti col DTT, siete l'indizio d'Italia, siete voi che abbandonate il paese, ecco, queste sono cose che ce le può risparmiare. Non abbiamo bisogno di specchi fasciste dentro, sotto, no? Cioè, sotto, questo vogliono dire, no? Cioè, è un atteggiamento, è un modo fascista di affrontare delle cose per un paese che è civile, che ha bisogno invece dell'allargamento della democrazia, non di qualcuno che giudica chi sono i giornalisti bravi e quelli che non li sono. I giornalisti facciano il loro mestiere, hanno tante colpe, no? Certamente non vogliamo sostituire Berlusconi col berlusconino che ci dice cosa dobbiamo scrivere o cosa non dobbiamo scrivere. Senti, a questo proposito, intanto spiego brevemente, poi ritorniamo su questa cosa, poi c'è Elvis da Messina, Antonio d'Asti, eccetera, eccetera. Ma volevo spiegare a chi non sa di questo punto G, il punto G. Qualcuno però saprà di cosa si tratta, di un punto misterioso, diciamo, nell'organo femminile a una certa altezza, che bisogna, se si tocca, che chiaramente il piacere è decisamente molto amplificato. Ma Grillo lo ha detto criticando una consigliera comunale di Bologna del Movimento 5 Stelle, Federica Salsi, che ha partecipato a una trasmissione, a Ballarò, no? Trasmissione come tanti talk show di quelli che vanno un po' per la maggiore, chiaramente, se uno vuol farsi un'idea di che parte stare, come la pensano e i rappresentanti politici, eccetera, eccetera. Lui che ce l'ha a morte, che non ne vuole sapere di vedere i suoi rappresentanti in televisione, l'ha attaccata durissimamente dicendo: voi, tu e le altre avete, ecco, avete il vostro punto G nella televisione. Lei si è arrabbiata tantissimo, ha detto che sono parole degradanti. Che, e a proposito di, e a proposito di berlusconismo, eccetera, Riccardo, devo dire che le, gli insulti che sono fioccati questa settimana sono particolari. Allora, Romney, che per attaccare Obama dice farà diventare gli Stati Uniti come l'Italia, e poi ben due, come, come quasi insulto sanguinoso nella loro accezione, hanno tirato in mezzo Berlusconi. Allora, a Federica Salsi e anche altre del Movimento 5 Stelle che hanno detto Grillo è peggio di Berlusconi, e lo stesso Donadi dell'Italia dei Valori, criticando Di Pietro, ha detto è peggio di Berlusconi. Cioè, adesso si usa addirittura come un insulto. Che ne pensi? Beh, diciamo, la prima, la cosa di Romney è, diciamo, un tentativo di diciamo, rianimare la sua campagna elettorale dopo, perché non sta andando molto bene, ma comunque fa un ragionamento di tipo economico. Dice: nei paesi che accumulano debito pubblico, poi fine, come la fine che faremo se noi continuiamo a accumulare debito pubblico. Invece la seconda parte è un tema importantissimo che, come vedete, attraversa un po' tutti i partiti, dove anche meno te l'aspetti, no? Non te l'aspetti che c'è una questione democrazia nel Movimento 5 Stelle, non te lo saresti aspettato una questione di democrazia dentro l'IDV, no? E invece, diciamo, l'uscita di scena, diciamolo così, no, di Berlusconi ha aperto, diciamo, il tema, che non, cioè non è più solo lui, qui bisogna fare una riforma dei partiti, una riforma della politica, in cui al primo posto c'è la trasparenza, la democrazia, le regole devono essere certe. In Germania, se non si fa il congresso, decade il partito, perché il partito ha una ragione giuridica legale, visto che prende i finanziamenti, cioè non è una baracca che puoi decidere se fare il congresso o non fare il congresso, se anticiparlo o non anticiparlo, c'ha le sue regole, queste regole sono stabilite dalla legge, se tu non le rispetti decade il partito e tu non prendi i finanziamenti. Allora noi abbiamo bisogno di partiti che siano trasparenti e dove il tema della democrazia sia, dove lo scontro sia vero, diciamo, non come sono i dittatori, i partiti di persona, ecco, partiti di persona non ne abbiamo bisogno, perché abbiamo visto che ci hanno portato sull'orlo del baratro, se non altro per questo, quindi proviamo a cambiare. Sentiamo Elvis da Messina all'800240024. Elvis. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire, sì, per molte donne, anche in pratica noi si sente molto parlare di fascismo, di nazisti, di molte razzismo, ma mai parlare di maschilismo. Io vedo ogni giorno massacrare, diciamo, non solo in Italia, in tutto il mondo, decine di donne, ma mai, tipo, se, con tutto il rispetto per gli omosessuali di tutte, diciamo, se succede un omosessuale si alzano i politici, si alzano tutti, ah vedi, se succede che a qualcuno subito, ma succede una donna, come se fossimo in Medioevo, in pratica. O che hanno bruciato una strega, non lo so, sinceramente, queste cose stiamo in XXI secolo, diciamo, sempre succedono sempre di più. Ogni giorno le cronache italiane sono con ogni parte dell'Italia, almeno una donna uccisa. Questo secondo me non è giusto. Elvis, tu stai a Messina, ma di dove sei originario? Io albanese. Albanese. Senti, sì. E nel tuo paese come qual è la situazione? Ma sinceramente tutto il mondo è un paese. Sì, è vero, ogni latitudine questo, purtroppo non, questa cosa. Sì, soprattutto sono anche, sentivo parlare prima le buttare le pietre alle donne, scusa che non mi viene ora la parola. Lapidare, dici. Lapidazione, un po' il cioè di lingua. Questo anche perché sono un musulmano, ma questo è vietato, signori, questa cosa, a prescindere delle religioni, ma questa cosa, noi siamo umani, io nemmeno le bestie una cosa del genere lo fanno, a prescindere uno se crede al Dio, ma l'unico che deve giudicare le persone è lui, non siamo noi a giudicare gli altri dei peccati, perché noi stessi siamo dei peccatori, o quelli che vanno o suicidarsi nel nome del Dio, ma dove l'hanno questo, dove lo trovano scritto? Io l'ho letto il Corano e non c'è nessun posto dove è scritto, né in terra né in cielo. Tu sei musulmano, Elvis? Sacro. Sei musulmano? Sì. Senti, e hai una compagna, se posso chiedertelo? Sì, ce l'ho, mia moglie, siamo sposati a dicembre, diciamo anche abbiamo avuto un po' di difficoltà perché lei ha avuto un intervento chirurgico al cuore, ma diciamo tutto bene, ringrazio di Dio. Senti, vi auguriamo di essere felici allora. Grazie di aver chiamato Elvis, grazie, scusa, siate felici. E adesso al numero 800 24 00 24 dovremmo avere anche Antonio d'Asti. Buongiorno, buongiorno Roberta. Buongiorno Antonio. Buongiorno, niente, io volevo dire che secondo me c'è un maschilismo imperante anche nelle nuove generazioni. Cioè vedo i comportamenti di molte mamme e trovo che c'è un maschilismo veramente eccessivo. Trovo quindi che bisognerebbe partire dalla scuola e sensibilizzare le nuove generazioni in questo senso. Antonio, perdonami, ho sentito un click che deve essere caduto Riccardo Iacona. Perdonami Antonio, stiamo prendendo un concetto importante. Riprendi. Ecco, voglio dire, io ho due ragazze, una di 10 e una di 14 anni. Vivo appunto ad Asti, quindi in una città piuttosto evoluta, però vedo dai comportamenti di tante famiglie che c'è un maschilismo che secondo me è eccessivo. Sono tutte queste famiglie sono convinte che i loro figli siano dei fenomeni e che le donne quindi devono essere in qualche modo subordinate. Quindi penso che ci sia un'emergenza sociale che vada combattuta e vada evidenziata già a livello scolastico. Antonio, tu scusami, tu hai figli e figli? Ho due figlie, una di 10 e una di 14. E devo dire che hai ragione, perché purtroppo fosse, uno dice, una questione, sai, di vecchie generazioni, man mano la cultura cambia. È vero, come dici tu, che a volte i figli maschi adesso sono ancora più viziati di prima, ancora con la convinzione, no, di essere migliori, di essere superiori, di categoria A rispetto alla serie B delle donne, con questo delirio di onnipotenza. Effettivamente non è una cosa del passato, anzi, no, con quello che succede tutti i giorni, l'ultimo che ha ammazzato la 101esima o 102esima ragazza aveva 22 anni lui. Certo. Riccardo, tu non hai sentito l'intervento di Antonio? Cosa mi sono perso? Ti sei perso un intervento interessante di Antonio, che ringrazio, grazie Antonio, da Asti, che diceva: a volte mi rendo conto, lui che ha delle figlie piccole, che altri genitori sono loro stessi responsabili di un certo maschilismo, anche dei figli maschi giovani, di ragazzi che stanno crescendo adesso, no? Dice, li fanno sentire quasi dei fenomeni e dopo si convincono di essere effettivamente... No? Dice che ha fatto una notazione molto interessante, tra l'altro sottolineando che il fatto dei ragazzi, l'età, come dicevi tu, l'uccisione di Carmela a Palermo, terribile, riguarda giovani, ma sono tante le storie di giovani tra le donne uccise quest'anno, così come sono tante le storie di trentenni, trentacinquenni, quarantenni. Cioè uno si immagina che queste siano storie legate a un'Italia in bianco e nero degli anni 50, degli anni 40, invece non è così. E il fatto che di generazione in generazione si passi questa idea che il rapporto è un rapporto, deve essere un rapporto di possesso e di dominio, vuol dire, te la dice lunga su quanto poco si fa in Italia come politiche attive, voglio dire, sia di formazione che di prevenzione, per costruire un paese dove ci sia vera parità, opportunità, stessa parità anche persino sul terreno così delicato dei sentimenti. Riccardo Iacona, senti, prima di fermarci per... scusate, la prossima pausa, bronchitella che si fa sentire, della vittoria di Crocetta, al di là di tutte le valutazioni politiche e anche degli interventi che poi, se riesco a aver tempo, leggerò anche sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, non ti sembra, a proposito di maschilismo, anche questa una forma così di novità o di rivoluzione piccola culturale, il fatto che le due forse più importanti regioni del sud, la Sicilia e la Puglia, nulla voglio togliere la Campania, neanche le altre, insomma, abbiano come presidenti di regioni due omosessuali dichiarati, che ti sembra? Come no, certo, sì. Beh, lo trovo una cosa importante, incominciare a abituarsi a valutare le persone per quello che sanno fare, per quello che sono e non per i loro inclinazioni sessuali. Questo è molto importante. Io dico, mi aspetto la vera rivoluzione quando anche le donne potranno entrare in campo. Certo, quando le donne, infatti, entrando in campo cambierà questo paese. Prepariamoci, è per questo che non le vogliono fare entrare in campo, capisci? Donne magari e anche omosessuali, chissà, presidente di una regione italiana. Ne parliamo poi tra poco, e anche magari di cosa pensate della vittoria di Crocetta in Sicilia, del fatto che il partito di Grillo è il primo partito nella regione. 800 24 00 24, a tra poco. Non ci sono più le mezze stagioni. E riprendiamo dove ci eravamo lasciati poco fa. Roberta Giordano, sempre con voi, più o meno sino alle 15, opinionista estemporaneo di oggi, giornalista e conduttore TV, che dal 6 gennaio riprende la sua Italia Impresa Diretta su Rai 3. Riccardo Iacona, appena scritto questo libro, Se questi sono gli uomini, sul costante femminicidio in Italia. Stavamo parlando delle elezioni in Sicilia, a parte questa cosa culturalmente abbastanza nuova, no? Di due presidenti di regioni, di grandi regioni meridionali, che sono due gay dichiarati, come Crocetta e come Vendola. Ma invece politicamente, di questa alleanza tra PD e UDC, che stenta invece, dicevo, no, a concretizzarsi poi a livello nazionale per le prossime elezioni politiche, della vittoria di Crocetta, che ne pensi? Qualcuno dice è una mossa gattopardesca, in realtà nulla cambia, sembra una novità. Bisogna vedere subito i primi atti, no? Perché lì da cambiare c'è tanto, no? Quindi è una roba che la misureremo subito. Lo dico da giornalista, perché chiaramente sarà, diciamo, se non tra le prime puntate, ma ci andremo in Sicilia a vedere quello che sta succedendo, no? Quindi lo misureremo subito. Non è un problema di alleanza, è un problema di cose da fare. Crocetta è stato molto diciamo ardimentoso, una volta ha detto ci sarà una rivoluzione, mafiosi scappate via dai posti dello Stato perché vi caccerò via, faremo la rivoluzione, taglieremo e recupereremo e lavoreremo per il bene pubblico, e aspettiamo di vedere quello che succede. A me mi interessano le, devo dire, però diciamo che non possiamo non vedere tutti quelli che non hanno votato, stanno lì, l'astensione, certo, ecco, l'astensione, no? È stato il dato grave, che dice, l'ha detto Ingroia, che quello è il voto mafioso che sta lì pronto aspettando di vedere, di costruire un nuovo patto politico nazionale. Siccome lo dice uno che ci capisce di queste cose, ascolterei anche la sua posizione. Certo, sarebbe davvero molto desolante, perché circa la metà, insomma, dei siciliani che non ha votato, che si è astenuto in queste elezioni. Sentiamo all'800240024 Antonella da Padova. Buongiorno. Buongiorno Antonella. Buongiorno. Grazie di parlare con te. Grazie a te. Prego Antonella, la notizia, allora, della settimana. Roberta, dico la mia. Io sono una psicoterapeuta, mi occupo di questi, dei drammi familiari e passionali da una vita. E volevo dare un attimo la mia opinione. Sì. Allora, quindi parlo dei drammi, delle prevaricazioni fino agli omicidi e suicidi, no? Soprattutto sono le donne, tra virgolette, vittime, e gli uomini cosiddetti carnefici. Allora, prima di tutto non c'è da dire che la donna è vittima e l'uomo è carnefice, anche se statisticamente senz'altro si muore per mano dell'uomo a causa della sua peculiarità di comportamento. Ma più che altro ambedue, sia l'uomo che la donna, sono vittime di quello che io chiamo il vero carnefice, che è l'analfabetismo psicologico. Che vuol dire? Vuol dire che nel 2013, quindi nel terzo millennio, noi siamo purtroppo ancora cavernicoli, noi che ci ambiamo di andare anche a fare le vacanze su Marte, no? Tra poco. Cavernicoli da che punto di vista? Dal punto di vista della conoscenza del mondo interiore. Una delle grandi conseguenze del fatto che nessuno conosce la psiche, come funziona, tutti viviamo col pilota automatico, con dentro dei file assolutamente tossici che dovrebbero essere rivisti e corretti, ma nessuno lo sa e nessuno lo fa, no? Se non poca gente, io parlo della maggioranza. Una conseguenza dell'analfabetismo è il fatto che la persona non sa che dal punto di vista del comportamento, che comportamento vuol dire opinioni, emozioni, voglie, eccetera, siamo assolutamente originali, non esiste nessuno uguale all'altro. Invece c'è una convinzione tossica, tra virgolette, che porta la persona a pensare che esiste l'essere uguali, no? Cioè si pensa, infatti si va alla ricerca dell'anima gemella, dell'altra metà della mela, cioè dei concetti assolutamente tossici, tra virgolette. Quindi la persona pensa che l'uguale debba rimanere vicino a me e il diverso debba essere rifiutato. Ecco che si arriva al rifiuto di fondo anche della diversità. Ok? Per cui quando ci si innamora, soprattutto, cosa succede? Che dopo l'innamoramento si vede la persona veramente com'è, perché passa lo sballo, e quindi che cosa capita? Che ci troviamo davanti alla diversità della persona da me, e quindi si vede questa diversità come una minaccia, e soprattutto ci hanno insegnato a gestire la diversità con due, io chiamo ricette, tanto per essere veloce, tossiche, due ricette tossiche, cioè la dominanza e la sottomissione. Non esiste, non è conosciuta dalla massa, la ricetta della mediazione, tra virgolette, mediazione nel senso di incontrarsi a metà ponte, ok? Cioè del far vivere nella relazione ambedue e perdere ognuno qualcosa, ma non tutto. Invece no, nella dominanza. No, no, ma è chiarissimo, Antonella. Mi piace anche la tua spiegazione. Anche se si deve capire, al di là poi delle mediazioni, di ritrovarsi nelle proprie diversità, eccetera, che quando non si può più stare insieme, non si può più stare insieme. Non c'è il senso del possesso. Tu sei roba mia, quindi cada Sansone con tutti i filistei, eccetera, eccetera. No, questo non può essere. Nel senso, le persone non sono possesso di nessun altro. Quando una storia finisce, finisce, basta. Poi ognuno si deve elaborare il proprio lutto, il proprio dolore. Antonella, ti ringrazio moltissimo. Qui rischiamo di andare un po' avanti, anche perché mi dice intanto c'è Nadia Zammitti che riceve centinaia e centinaia di telefonate alle quali dobbiamo rispondere. Pietro La Corte invece mi ricorda, sì, che abbiamo il collegamento satellitare con Marte, sì. Riflessioni da Marte. A vederla da quassù, da Marte, la penisola italica procede abbastanza vistosamente a due velocità, ma non si tratta di questioni di motori, tanto meno motori Fiat, no, si tratta nemmeno di punti cardinali, no, il nord, il sud, questione meridionale, questione settentrionale, no, no, non è questo. Sono proprio due modi di procedere. Da una parte si celebra l'elogio della lentezza e dall'altra parte si celebra l'elogio della durezza. Con questa seconda procedura, l'elogio della durezza, che avanza con una certa celerità, bisogna dire, vengono elargite, per così dire, a chi le paga, tasse, imposte, si producono migliaia di esodati, si dice no per esempio allo stanziamento necessario ai pazienti malati di SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, e alle loro famiglie, no? Sull'altro versante invece, quello che vede l'apoteosi dell'elogio della lentezza, si lascia indolentemente che i privilegi restano saldamente in mano a chi ce li ha, che le potenti lobby con qualche capriccio riescano ad autoconservarsi intatte nei decenni come mummie egiziane, che i parlamentari, dopo aver più volte annunciato con risolutezza di voler si dimezzare, restino in numero identico, con identici emolumenti. E sempre coerentemente con l'elogio della lentezza, il Consiglio dei Ministri decide, dopo 9 anni di approfondimenti e di studi, di prorogare i termini per l'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina per fare verifiche sulla fattibilità dell'opera. E in aggiunta, visto che, assecondando una lentezza infinita, anche i partiti defunti continuano a gestire milioni di euro, perché, tanto per cominciare, il governo, con un po' di rapidità, non comincia a prendere il prelievo di solidarietà per sostenere gli esodati proprio da lì? Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano i soldi, bene amati i soldi, perché chi tanti soldi vive come un pascià e piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, vera babbe praschi, ti danno donne, whisky, saluti, figli maschi, perché chi tanti soldi vive come un pascià e piedi caldi se ne sta. E torniamo subito con i piedi per terra. Mi sento proiettata nell'Odissea con Omero da Catania. Omero. Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Ma ti chiami veramente Omero? Omero di Catania? Esatto, Antonio Omero, proprio di cognome. Ah, Omero di cognome. Sì, sì. Pensavo la grandeur dei tuoi genitori, ti avessero chiamato Omero, mica roba da poco. Omero, e di nome è Antonio, sì. E quindi la questione omerica la possiamo anche risolvere ormai, sì. Perché esistiamo, ecco, gli Omero. Volevo solo parlare un attimo del discorso dell'elezione di Rosario Crocetta, sì, come presidente. Visto che sei siciliano. Esatto, di Catania. Il punto è, non è tanto un'azione, c'è qualcosa di positivo che noi abbiamo eletto più o meno un omosessuale oppure no, noi abbiamo eletto una persona, per cui non è andare avanti ancora parlando dell'omosessualità come se fosse una negatività o una positività da accettare più o meno. Se così fosse non ci sarebbe più bisogno di parlarne, ma siccome così non è, caro Omero o Antonio. Ma sai, da quando noi, diciamo, perlomeno noi siciliani siamo abbastanza evoluti, siamo la culla della cultura, per cui abbiamo dato cultura e insegnamento da questo punto di vista un po' a tutta Europa e a tutto il mondo, perché la Magna Grecia parte da qui, e quanti omosessuali c'erano che venivano accettati dalla società e che venivano e avevano anche un potere. Quindi credo che ancora continuare invece su questo discorso della omosessualità come se fosse un'evoluzione sociale, più o meno votare o non votare una persona omosessuale, secondo me è una cosa ormai troppo, ma troppo antica. Io invece volevo dire, sì, che bisogna partire non tanto, ecco, l'unico possibile difettuccio che posso rilevare nel mio amico Rosario è che lui possa mettere troppo avanti, essendo molto sensibile, appunto di persona, il suo io. Invece dovrebbe, ecco, perché questa forse è l'unica negatività di Rosario, che è troppo accentrato sulla sua persona, che sarà il salvatore della patria. Invece no, lui dovrebbe mettersi a disposizione del voi sociale. Beh, speriamo che Crocetta abbia ascoltato e può chiamare l'800240024 per rispondere a Antonio. Grazie Antonio, prima della prossima pausa per aggiornare chi sta viaggiando. Raul da Torino, brevemente. No. Raul? Pronto? Sì. Buongiorno. Ciao. Ringraziarvi molto della vostra trasmissione, che trovo veramente attuale e importantissima. Ce lo dici tu, mi fido, Raul, grazie. No, esco un attimino dal tema che stai trattando con l'ultimo ascoltatore, perché comunque volevo così segnalare un'esperienza che sto vivendo a Torino come artista, perché ho la possibilità di esporre nell'Associazione della Cultura di Torino, in una sede istituzionale, un progetto proprio sulla violenza femminile. Ah, come artista a Torino. Sì, comunque credo che comunque l'arte, come la cultura, abbia una grandissima responsabilità sul tema dell'utilizzo del corpo femminile, comunque tutto quello che è appunto l'immagine la donna, che comunque viene quasi sempre utilizzata così malamente o comunque per scopi di marketing, queste cose qua. E quindi questa installazione che presento c'è proprio la volontà di parlare di questa scelta. Raul. Un telefono poco artistico, Raul, ci dispiace, però insomma è una cosa meritoria che sta facendo Raul a Torino. Ci fermiamo giusto per qualche istante, siamo qui, men che non si dica, 800 24 00 24. Non ci sono più le mezze stagioni. Di nuovo qua, naturalmente, con Riccardo Iacona in collegamento con il suo motorino parcheggiato. Speriamo che sia sempre in collegamento. Sì, mi confermano. Conduttore TV che dal 6 gennaio riprende con l'Italia Impresa Diretta su Rai 3. Ha appena scritto questo libro, Se questi sono gli uomini, sul femminicidio in Italia. Poi ci sono ancora ascoltatrici e ascoltatori all'800 24 00 24. Riccardo, c'è un'agenzia che è appena uscita, una dichiarazione di Renzi, di Matteo Renzi, che dice: le regole che sono state immaginate per le primarie hanno allontanato molte persone secondo i sondaggi. È possibile secondo te? Sì, certo che è possibile, nel senso che però delle regole ci vogliono. Adesso io voglio dire, non ho neanche, cioè, per quello che leggo, naturalmente, ecco, io li terrei molto aperti, cioè da questo punto di vista sono d'accordo con Renzi e con tutti quelli troppi che limiti, sostengono troppi paletti, che, noi, che il Partito Democratico dovrebbe ringraziare le persone già solo perché affollano, diciamo, i gazebo, e dovrebbe rendere il più fluido e meno filtrato possibile l'arrivo delle persone che vanno a votare, perché è questo l'esercizio della democrazia. Non mi preoccuperei tanto, io non li vedo questi squadroni del PDL che mascherati da gente del centrosinistra va lì e altera il voto, no? Quindi se si fanno delle regole che sono troppo filtranti, nel senso che richiedono alle persone delle fatiche in più, che in un momento dove, diciamo, è così forte il distacco tra la gente e la politica, quelli non vanno a votare neanche quando è semplicissimo, cioè la domenica mattina in Sicilia devono mettere una firma nella scuola sotto casa e tu vai a complicare, diciamo, l'afflusso delle persone. Da quel punto di vista penso che Renzi abbia ragione. Adesso abbiamo un appuntamento al quale naturalmente non possiamo mancare, che con il nostro Don Severino da Potenza, nostro parroco di trasmissione, ciao. Diciamo, caro Don Severino. Ciao, buongiorno, ciao Roberta. Dunque, volevo far notare alle persone sull'elezione di Crocetta, no? Il silenzio assoluto della Chiesa, no? Nel senso che non ha proibito che fosse eletto in quanto gay. E poi vorrei far notare la cosa che per me è fondamentale per l'Italia. I latini dicevano pecunia non olet, cioè dire i soldi non puzzano, quindi il potere. Casini, lo conoscete chi è, no? Che contro le coppie di fatto, contro i gay, contro tutta questa situazione. Come mai ha fatto eleggere Crocetta? Forse come Scajola non sapeva che era gay? Riflettete, gente, e andate a votare. Grazie. E questo è Don Severino. Riccardo, tu che ne pensi, ecco, dicevamo, di questa alleanza? Io Casini lo sapeva benissimo, naturalmente, chi è Crocetta. Crocetta, tra l'altro, è stato sindaco di Gela, mi pare che è stato un ottimo sindaco, dice di aver fatto arrestare 850 mafiosi, non so se sono esattamente così, ma credo che la sua battaglia contro la mafia la faccia coraggiosamente da tempo. È un uomo blindatissimo. Sparava tutti i giorni per le strade, cioè voglio dire, su quel terreno lì ha fatto un lavoro enorme. Ma che vuoi, l'UDC non è più l'UDC di una volta, ecco, diciamo, lì c'era Cuffaro, no? Adesso Cuffaro è in carcere, questo era l'UDC siciliano. E ha deciso di dare una svolta. Cercando una via d'uscita, diciamo, che dia forza e continuità all'opposizione che ha fatto nell'ultimo periodo, anche se lui è stato in parte, insomma, a fini responsabile, che ha fatto a Berlusconi. Il PD dall'altra parte sta cercando di costruire una maggioranza solida attorno a un programma di risanamento del paese, che più o meno debba continuare sotto altre forme, con qualcosa di più, l'agenda Monti, quindi non deve spaventare né la finanza né gli altri partner internazionali all'interno, nel mondo, diciamo, all'interno del quale noi viviamo e dal quale insomma ci deve portare lontano da quel baratro che abbiamo visto fino all'ultimo momento. Quindi lo trovo una cosa abbastanza fisiologica, ecco. Fisiologica, anche se io lo ritengo quasi, rispetto a quello che diceva Don Severino, appunto una specie di contrappasso per Casini, questo di aver votato e sostenuto un gay, al di là di quello che diceva giustamente Antonio da Catania, che non bisogna più fare differenze, eccetera. Fosse già così non ne staremmo a parlare, ma insomma è una questione che invece ancora non è superata. Altro appuntamento, naturalmente, con Valeria Della Valle, la nostra linguista della Sapienza di Roma. Cara Valeria, ti sottoporrei il termine populismo, perché continua a venire fuori, no? Si dice, si accusano soprattutto in questo periodo Grillo, in particolare, ma anche Di Pietro, di populismo. Che ci dici di questo termine? Ognuno scaglia addosso questa parola all'altra. E è interessante ricordare che la parola è nata in Russia. Ora è difficile da pronunciare, ma la parola russa dalla quale è stata tradotta poi il populismo era narodnicetsvo. Ora i russi si scandalizzeranno della mia pronuncia, ma questa parola indicava un movimento di giovani intellettuali che era nato alla fine dell'Ottocento proprio per idealizzare in un certo senso le masse popolari contadine. Poi la parola dalla Russia è stata tradotta negli Stati Uniti nel 1891 con populism, per indicare un certo partito, il People's Party, che era un partito appunto di ispirazione popolareggiante. Da questo populism inglese, quindi da una parola inglese che veniva una parola russa, questa parola è passata in Francia e in Italia con le corrispondenti parole populism e populismo, che ha indicato però soprattutto, anche se non solo, ha avuto una sfumatura spregiativa, quindi per indicare un atteggiamento che cerca di accattivarsi il favore popolare con proposte demagogiche. Ecco, allora, qui come concludere? Oggi il termine viene usato proprio già da molto tempo, soprattutto come termine offensivo. Allora, chi lo usa dovrebbe andarsi un po' a ripassare questa origine della parola, che dalla lontana Russia alla fine dell'Ottocento è arrivata fino a noi e oggi viene usata con sfumatura fortemente offensiva. Dalla Russia con furore, grazie Valeria Della Valle. Ciao Valeria. Al numero verde ancora riusciamo a prendere forse Antonio da Roma, all'800240024. Antonio, tu sarai molto succinto, diciamo? Antonio? Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, niente, volevo dire soltanto per quanto riguarda, diciamo, il discorso di queste persone che sono state elette in Sicilia, Ventola, Crocetta, eccetera, eccetera. E vabbè, a prescindere dal discorso della sessualità, ma l'importante è che siano persone corrette, che pensino a fare le cose per bene per l'Italia, che ne abbiamo tanto bisogno. Siamo d'accordo, Antonio. Tantissimo bisogno, perché qui andiamo a leggere delle persone che praticamente prendiamo fiducia, le leggiamo, gli diamo il voto e alla fine che cosa succede? Veniamo a scoprire che queste persone diventano ladroni. Basta che hanno la poltrona, l'importante è che conquistano la poltrona e praticamente poi basta, si scopre che fanno altre cose, tutto meno che i nostri interessi. Grazie Antonio, sei stato chiarissimo. Adesso invece a Riccardo Iacona, molto più velocemente, visto che siamo verso la conclusione. Riccardo, a spot ti voglio chiedere che ne pensi della questione Fiat di 19 che deve far fuori per reintegrare gli altri 19 Che ne pensi? Beh, è la logica un po' nazista, la decimazione, no? Anch'io ho pensato di aver esagerato, mi viene in mente quando uccidevano un soldato nazista che poi ne prendevano altri 20 italiani. Noi abbiamo fatto una puntata l'anno scorso che si chiamava Fabbrica Italia, in cui abbiamo tirato fuori bene in prima serata che cosa è stata la discriminazione nei confronti della FIOM a Pomigliano. Questa, dopo ci sono state le sentenze della magistratura, è veramente qualcosa di inaccettabile. Sì, invece per quanto riguarda qui con tutti gli interventi, anche questo brevissimo, ci sono stati tantissimi interventi degli ascoltatori sulla pagina Facebook, io mi sono letti tutti se volete poi andare a vedere, sulla possibile candidatura di Pietro al Quirinale, che ne pensi? In due secondi. Beh, penso che ci saranno forse persone migliori, non lo so, non mi sembra, ecco, che abbia la levatura, ecco. Invece c'è Renzi che dice speriamo che Obama ce la faccia, mi ci metto anch'io a fare il tifo per Obama, tu? Facciamolo tutti quanti. Evviva tutti il tifo per Obama, grazie. Riccardo Iacona, riprendi tranquillamente il tuo motorino, grazie per il tuo libro Se questi sono gli uomini, pubblicato da Chiare Lettere, speriamo che anche donne e uomini riescano a mettersi insieme più civilmente, e da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.